Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. Finalmente sabato e bentornati in questo sabato 25 aprile ad Avanzi di Manera, sempre qui con Leonardo Manera a commentare le notizie più inusuali, quelle che non trovano spazio sulle prime pagine dei giornali, insieme a Daniele Ceva. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Cosa è successo questa settimana? Noi vogliamo partire subito con una notizia, Ceva, che sicuramente lei troverà di particolare interesse. E dica, vediamo. Dopo gli arti, ecco il pene robotico. L'erotismo diventa fantascienza. Un pene robotico restituirà il piacere sessuale agli uomini che hanno perso l'uso dei genitali. È il suo caso, Ceva? No, per ora no. Insomma, che caratteristica ha questo pene robotico? Che praticamente si può ottenere l'erezione solo col pensiero. Pensi che bello, Ceva? Lei che ha sempre avuto problemi... Io non ho mai avuto quel tipo di problemi. È una soluzione chirurgica rivoluzionaria per gli uomini che hanno subito ferite o traumi agli organi sessuali. Quindi è una grande novità, perché insomma si sa che questa... Vabbè, ma non c'è un numero di telefono, non per me, magari da comunicare a così ai nostri ascoltatori, il nome dell'azienda, facciamoci mandare un No, pare che al momento si è ancora in fase di prototipo, diciamo, però tra un anno dovrebbe essere commercializzato, a quanto sembra, con vari modelli, colori, colori, dimensioni. Guarda che è una grandissima novità per tutti gli uomini, direi che si aprono delle frontiere, e anche per le donne, tra l'altro, per le donne, certo, che vogliono cambiare sesso o delle donne che cercano particolare, insomma, chiederanno al marito: senti, ma mettiti questo modello qui piuttosto che l'altro, no? Un po' come quando c'è da scegliere il colore della macchina, il modello della macchina. In questo caso è proprio una vera e propria operazione chirurgica, quindi è un po' complicato ogni volta, però diciamo che è una buona notizia, quindi siamo partiti con una buona notizia. Ma a proposito di tendenze sessuali, c'è questa notizia che arriva dagli Stati Uniti, è la seguente: rifiuta di vendere fiori per le nozze gay e riceve donazioni per $150,000. Una fioraia omofoba nega per motivi religiosi un bouquet di fiori per le nozze omosessuali. Viene multata per discriminazione, 100.000 euro la multa, sì. Ma lei mette questa sua vicenda sui social network e raccoglie consensi e soldi su un sito di fundraising, quindi vuol dire che Che come lavoro rifiutare i fiori per le nozze gay, insomma, è insomma, una cosa che potremmo tenere in considerazione per il nostro futuro, caro Manera, perché noi basta, apriamo questo chiosco di fiori, rifiutiamo di venderlo per le nozze gay e ci arrivano 150.000 euro che poi noi daremo a questi gay per sposarsi. Ma lei, se avesse un negozio di fiori, sì, veramente, sì, venderebbe fiori per le nozze gay? Oppure io venderei per qualsiasi cosa, anche se lei è un po' omofobo, insomma. No. Però rinuncia alla sua omofobia in cambio di denaro. In cambio di denaro, assolutamente. Cambio bandiera anche politica in cambio di denaro. Certo, ma è così che bisogna essere. Per denaro si fa tutto, no? Assolutamente. Allora, leggiamo un paio di battute sui gay. Sto solo aspettando che qualcuno dica che sono un omosessuale, che è quello che capita quando sei una star davvero grande. Questo era Burt Reynolds, che fu per un certo periodo il più pagato attore di Hollywood. Burt Reynolds, lo sapeva? No, non sapevo, so che è stato marito di Liz Taylor. Era Burt Reynolds o Burt Lancaster? Era Burt Lancaster. Era un Burt Simpson. Non era né uno né l'altro. Era Burt Simpson. Era Burt Simpson. No, chi era il marito di Liz Taylor? Richard Burt, c'è sempre un Burt. Burt c'è. Allora, c'era un gay così brutto che era costretto a uscire con le ragazze. Questa è di Milton Berle, che è un comico statunitense. Riguardo a questa notizia dei fiori, omofobia, eccetera, eccetera, abbiamo provato a sentire anche il vostro parere facendo qualche telefonata a caso. Vediamo cosa ci avete risposto. Pronto? Buongiorno signora, qui a Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. La conosce? No. Stiamo commentando la notizia di una fiorista che ha rifiutato di vendere fiori per delle nozze gay perché era contraria alle nozze gay. Lei cosa ne pensa di questo atteggiamento? Non lo trovo giusto. Cioè, lei li avrebbe venduti i fiori? Sì. Lei è favorevole alle nozze tra omosessuali? No. No. Che no, cosa pensa? Sono tollerante della libertà di chiunque. Però le nozze, il matrimonio non lo vede di buon occhio? No. Perché? Una cattolica praticante, per me la coppia è quella tra uomo e donna. Basta. Però se... chiaramente tollero la libertà degli altri di vivere come la propria sessualità come piace, ma io non sono d'accordo. Ma secondo lei ci sono anche preti omosessuali così pur essendo cattolici? Certo che ci sono, ce ne sono tanti, non solo. E allora come... non vuol dire che sia una cosa giusta. Sbagliato giusto, però il fatto è che uno nasce omosessuale piuttosto che nasce eterosessuale non ci è una disgrazia anche quello, secondo me. Quindi essere è un po' ognuno la vive secondo il modo di essere, di credere, di pensare. Io sono tollerante della libertà degli altri di vivere come vuole, come vogliono. Ma perché dice che è una disgrazia essere omosessuali? Secondo me perché si vive male. Beh, ci sono omosessuali che vivono benissimo, è una loro, diciamo, caratteristica sessuale. Come... non lo so, vivono male anche perché chiaramente essendo non secondo una tua, insomma la maggior parte sono eterosessuali, vivono male in una società eterosessuale. Quindi è una disgrazia anche un po' contro natura? Io penso di sì, ma anche perché poi ci sono persone che non tollerano, sono intolleranti e quindi per lessi, diciamo, condanne cose, io non lo farei mai. Per me un omosessuale è una persona normale, ma c'è gente che li evita. E fanno bene o fanno male evitarli? Fanno male, malissimo. Fanno malissimo. Quindi diciamo che l'omosessuale, essere omosessuale è un po' una disgrazia, è un po' contro natura, però bisogna tollerarli, possiamo dire così? No, bisogna considerarli creature di Dio, come siamo tutti. Secondo me vivono male. Vivono male. Però contro natura, perché la natura non è quella, la natura ci ha fatto maschi e femmine, perché ci ha fatto maschi e femmine la natura? Ci deve stare una ragione, no? Chi non crede, diciamo, la natura, chi è credente, diciamo, il Signore, non lo so. Però ci deve stare una ragione per cui siamo nati maschi e femmine, non lo so. Dica lei. Ma quindi secondo lei l'omosessualità è una specie di malattia che si sviluppa negli anni? Perché inizialmente... No. Io non penso. No. Penso che ci si nasca. A volte si sviluppa negli anni, ma quello è un vizio. È un po' un vizio. Quello sì. Invece quello che gli omosessuali perdono, quelli che ci nascono. Poverino, secondo me... una cosa da compiangerli, non da... Li compiangiamo. Ma secondo lei l'omosessuale quando muore ha diritto di entrare nel regno dei cieli o no? Io penso di sì, come tutti. Come tutti, anche... Se è una creatura di Dio. Direttamente in paradiso o prima un po' in purgatorio? Questo tutti quanti. Che glielo so dire io? A prescindere dalla omosessualità, può essere un omosessuale buono, un omosessuale disgraziato, mafioso, che uccide, non lo so. Ma che c'entro, questa è un'altra cosa. Va bene signora, grazie. Prego. Buona giornata. E allora abbiamo ascoltato questa signora che aveva queste opinioni, insomma, sue particolari, ma proseguiamo con un'altra notizia che è molto interessante perché può riguardare la vita di molte persone, magari di molte persone che stanno per sposarsi, ed è questa: finge la propria morte per sfuggire al matrimonio. Incredibile. Questa è la voce di mio figlio Beniamino. Lei è stato sposato, tra l'altro, Ceva, se non sbaglio. Sì, ed era la mia ex moglie che si fingeva morta. Soprattutto quando doveva avere rapporti con lei, no? Sì. Esatto. Insomma, questo qui ha fatto questa mossa, solo che poi in realtà la moglie ha scoperto questa truffa. La moglie o quella che sarebbe dovuta diventare la sua futura moglie. Vediamo com'è andata. Il 23enne Tucker Blandford, quando ha capito che non voleva sposarsi, ha scelto una strada estrema. Ha finto la propria morte per evitare il matrimonio. Quando la futura moglie Alex ha saputo dell'inganno, le si è spezzato doppiamente il cuore. Ha distrutto la mia fiducia. Non so se avrò altre relazioni in futuro, racconta la ragazza. Lei cosa dice? Avrà altre relazioni in futuro o no, questa ragazza? Spero di sì per lei, anche perché questo qua era un emerito imbecille. Cioè, come fai a fingere la tua morte? Non abitavano vicini. Lei stava, se non sbaglio, negli Stati Uniti, lui in Inghilterra. Lui ha chiamato la ragazza fingendo di essere il proprio padre. Ha detto: sono il padre di Tucker. E ha raccontato che il figlio si è suicidato. Mi ha detto che Tucker era depresso e voleva morire. E così si era gettato sotto un'auto. Ha detto che avevano tentato di mettere Tucker in cura, ma non avevano fatto in tempo. È stato devastante. Ho capito, però poi devi farti un funerale finto, devi sparire. Ma è stato molto più semplice, perché la ragazza semplicemente ha telefonato alla madre del ragazzo, la quale ha detto: no, è qui, sta benissimo, non ha problemi. È al telefono. E qui è al telefono che sta imitando suo padre, non so con chi. Allora, vediamo qualche battuta anche sul matrimonio, caro Ceva. Il matrimonio è come una trappola per topi. Quelli che sono dentro vorrebbero uscirne e gli altri ci girano intorno per entrarvi. Questo era Giovanni Verga. Giovanni Verga, ci citi due o tre opere scritte da Giovanni Verga? Giovanni Verga, i Malavoglia. Malavoglia, poi? C'erano i Lupini. I Lupini, C'era questa, oh, poveri Lupini. I Malavoglia, poi c'era le novelle di Verga e poi l'altra famosa... Mastro Don Gesualdo. Mastro Don Gesualdo, esatto. Il ciclo dei vinti era quello famoso di Verga. Un po' questo è il verismo. I vinti dalla riba, dalla vita, il verismo di Verga. Oh, qui, che cultura di altissimo livello. Cosa l'aspettava, vero Manera? Lei mi ha sempre considerato un saltone da bar. Beh, sì, questo è vero, non si può negare, lo sanno anche tutti dove abita lei in questo paese, nei dintorni di Milano, dove abita esattamente a Vermezzo. Allora, alcuni matrimoni finiscono bene, altri durano tutta la vita. Questo è di un anonimo probabilmente sposato. Però c'è anche una buona notizia che vogliamo dare agli uomini, soprattutto divorziati. Riesce a leggerla, caro Ceva? La Cassazione ha, insomma, c'è questa sentenza importante per i mariti divorziati: niente più alimenti se l'ex coniuge ha un compagno stabile. Quindi per diciamo tutta che la vita. D'ora in avanti la Cassazione ha stabilito questo principio per cui se tu, donna, ti ritrovi dopo esserti separato o divorziata un altro uomo con cui vai a convivere, l'uomo finalmente è libero da doverti pagare gli alimenti, è così? Esatto, la convivenza finalizzata ad un progetto di vita è una famiglia di fatto, pertanto l'ex coniuge quando vive in modo stabile con un nuovo compagno non ha più diritto per sempre a ricevere l'assegno per di sempre, mantenimento. Diciamolo, chiariamolo bene, per sempre, basta, siete liberati per sempre. Per sempre. Siete liberati uomini da questo giogo. Dagli alimenti. E noi con questa bella notizia per tutti gli ex uomini andiamo sposati, andiamo a festeggiare e sentiamo anche il traffico. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore, la conosce? No. E noi stiamo commentando una notizia, una sentenza della Cassazione che ha stabilito che se due persone sono separate, divorziate, ma lei, la moglie... Io non sono né per il divorzio né per la separazione, voglio solo che le persone si vogliono bene, per tutto il resto non mi interessa niente. Grazie. La ringrazio. A lei. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Olimpia è la città dello sport, con le sue leggende, i suoi simboli, le sue verità, i suoi inganni. Tra mito e attualità vi racconterò tutti i segreti e le storie dello sport. Sono Dario Ricci e vi aspetto ogni domenica alle 16.30 a Olimpia, miti e verità dello sport. Naturalmente qui su Radio 24. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. E allora siamo tornati ancora ad Avanzi di Manera. Vi ricordo sempre che potete scriverci, noi aspettiamo sempre qualche vostra mail ad avanzidimanera@radio24.it. Perché ci possono, ci devono scrivere, ci dovrebbero scrivere, Ceva? Perché possono intanto suggerirci delle notizie che sono magari appunto abbandonate, dimenticate, diciamo nel sottosuolo del giornalismo, delle notizie locali piccole, oppure comunicarci dei numeri di telefono di amici o i propri ai quali, non so, qualcuno volesse che noi li contattiamo perché intervengano nella nostra trasmissione. Diciamo anche che a tutti quelli che dovessero scrivere, buon Daniele Ceva offrirà un aperitivo nel bar principale di Vermezzo. Un bitter. Allora, ma veniamo con la notizia che volevamo dare, che riguarda Lady Pantera. Forse potete già immaginare. Sua amica d'infanzia. Mia amica d'infanzia. Forse già sentendo il nome potreste immaginare di cosa si occupa questa Lady Pantera. Noi però, per farvelo capire meglio, abbiamo trovato in internet la sua segreteria telefonica e ve la facciamo sentire. Lady Pantera, padrona autoritaria, suprema, sadica, perversa, implacabile, riceve allievi e schiavi ubbidienti, distinti, consapevoli del proprio ruolo. Sono di razza italo-brasiliana e tedesca svizzera, sana e sobria, di peli bianca, da vera padrona occidentale. Ricordati, servo, una vera padrona non potrà mai essere discendente di schiavi africani, quindi non farti ingannare dai soliti gay travestiti brasiliani drogati, barboni, con pelle scura affumicata, da schiavo nero ribelli. Hai capito, vermi? Va bene, avete sentito chi è Lady Pantera, immagino che l'abbiate potuto immaginare. C'è no? Una ricerca antropologica dietro questo messaggio, no? Cioè, la vera padrona non potrà mai essere discendente da di schiavi neri. neri africani, egiziani. Allora, diamo questa notizia che riguarda Lady Pantera. Lady Pantera deve pagare 60.000 euro al fisco per il lavoro da prostituta. La decisione della commissione tributaria per un trans brasiliano che lavora in Italia. Annullate però le sanzioni accessorie perché la prostituzione non è disciplinata. Non è disciplinata, ma lei come mai allora? Come fanno a capire? Non credo che lei emetta degli scontrini, a parte che con tutto quello che fa potrebbe anche farlo. Ma... E questo probabilmente è stato qualche agente, la Guardia di Finanza, che è stato suo cliente. Quindi ha detto... Niente, no, si portano al lavoro anche nei momenti, dice, non riescono a staccare un attimo. Probabilmente hanno fatto un accertamento induttivo rispetto al suo livello di vita. Ah, ho capito. Hanno detto, lei probabilmente possiede queste cose, quindi deve avere un reddito di un certo tipo. Certo. E sulla base di questo presunto reddito lei deve pagare le tasse. Però non possiamo far di più perché il lavoro non è regolamentato. Quindi è una specie di accertamento, diciamo, empirico, possiamo dire così. Allora, vediamo qualche battuta sui trans. Un bimbo ha chiesto alla mamma: mamma, perché ci sono uomini che si vestono da donne? Cosa sono queste parole? Lo saprai quando sarai grande. E poi te l'ho detto mille volte, io non sono la mamma, sono il papà. Di Giorgio Faletti. Ne legga lei un'altra. Infermiera, due punti. Ma perché vuole farsi operare per cambiare sesso? Paziente, ho sentito che le donne vivono più a lungo. Questa è bella. È di un anonimo, però non si sa di chi sia, quindi la possiamo rubare e lei la può utilizzare. È di un anonimo poi diventato anonima, essendo poi... Esatto. Ah, va bene, sentiamo anche cosa ci avete detto voi. Abbiamo chiesto qualche parere a casa sulla questione. Vediamo. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, Radio del Sole 24 ore, la conosce? Sì, la conosco. Stiamo commentando una notizia, è la seguente: una prostituta brasiliana, un transessuale brasiliano, è stato condannato a pagare 60.000 euro per il suo lavoro appunto di prostituzione. No, io non sono d'accordo. Su cosa non è d'accordo? Non sono d'accordo che deve pagare la multa, perché ognuno è libero di fare quello che vuole nella vita, io sono d'accordo così. No, ma non è una multa, questa prostituta, che poi è un transessuale, praticamente è stato condannato a pagare 60.000 euro di tasse. Ah, di tasse mi parla. Sì. Di tasse. Ah beh, se si tratta di tasse che lei guadagna, quello sì che mi va bene. Secondo lei andrebbe regolamentato il lavoro di prostituta? Quindi quello siamo d'accordo. Cioè lei... Noi parliamo spesso di questo, di quello che succede in Austria. Siamo pienamente d'accordo di quello che succede là, perché è tutto regolare, no? Perché lei è di origine austriaca? Non sono di origine austriaca, ma amiamo l'Austria per il loro modo di vivere, ecco, cioè tutto lì. Perché pagano le tasse e tutto, per quanto ho sentito io. E secondo lei perché in Italia non si riesce a fare una cosa di questo tipo? Perché in Italia mettono migliaia di macchine da giocare e i giovani si stanno rovinando, per cui noi in famiglia abbiamo uno che ha mangiato tutto e non lasciano fare il casino e giocano e guadagnano lo Stato con quelle macchine lì. Perché lo fanno? Mi dica lei perché. No, io sono d'accordo con lei, dico, io regolamenterei la prostituzione, ma secondo lei perché in Italia non si riesce a fare? Di chi è colpa? Ah, di chi è colpa? Di chi è colpa, Mariucci, se non si riesce a regolare con mia sorella? Di chi è colpa? Beh, ovviamente della politica che parte da lì, no? Penso. E invece riguardo, per esempio, la legalizzazione delle droghe, lei è contraria o è favorevole? No, su quello non saprei proprio... Sulla droga ne ho sentito parlare quando sono in compagnia, però non riesco a dare una risposta. Non so, lei mi dica lei che è il problema. Ma se fosse per me, guardi, prima uno si può fare una canna, poi va dentro una casa chiusa con una prostituta e poi può concludere la serata al casinò. Io la vedrei così, tutto regolare. Lei cosa ne pensa? Limiti, voglio dire, oh, liberazione. Finalmente, signore, è bello sentire una signora, immagino anche insomma matura. Sono avanti negli anni, però io fa di tutto, non me ne intendo. Comunque sono soltanto delle prostitute, per quanto si dice, e ognuno può fare il suo mestiere ed è giusto rispettare tutti, no? Certo. E regolarizzare anche. Sul gioco invece quello che mi dà fastidio è tutte queste macchinette che sono sti giovani che si stanno rovinando, e ne abbiamo migliaia di macchine qui anche a San Daniele, che è una roba veramente. Ah, San Daniele del Friuli, la patria del prosciutto. Il prosciutto, sì. E la gente si rovina anche mangiando prosciutto in eccesso, secondo lei o no? Ma siccome costa, viene regolato da sé. Va bene, siamo quasi addirittura d'arrivo. Prima però voglio andare un'ultima notizia che oggettivamente è divertente. La dia lei, Civa. urla "Io sono Dio", spintona un poliziotto e poi tenta di fare sesso con un albero. Non ci credo, una notizia troppo strana. È così, Beniamino. Eh sì. Insomma, questa persona che si chiama Kenneth Crowther, 41enne di Melbourne, è l'ultima vittima della flacca, la droga della follia. Colpito due volte con un taser da parte di un agente, Kenneth Crowther è riuscito a fuggire volando, appunto, e ha gridato "Sono Dio, sono Dio" e ha iniziato a fare sesso con un albero che era lì nelle vicinanze. È strana questa cosa di uno che si sente Dio e fa sesso con un larice. Con un larice, un platano, che di solito il platano soddisfa di più. Allora, noi prima di salutarvi abbiamo altre due cose. La prima è la rubrica di Daniele Ceva, dove dà proposte per i palinsesti televisivi, cose originali. Che cosa ha preparato questa settimana? Questa settimana, caro Manera, cari ascoltatori, io proporrei a tutti i produttori televisivi questo sceneggiato che si chiama Ritorno al passato. È la storia di uno scienziato che da quando ha 20 anni tutti i giorni lavora incessantemente senza mai uscire dal suo laboratorio per inventare la macchina del tempo. Dopo circa 20-25 anni ce la fa finalmente a inventare questa macchina del tempo. E che cosa decide di fare con la macchina del tempo? "Voglio tornare a quando avevo 20 anni". Torna indietro quando aveva 20 anni e si ritrova lì nel laboratorio tutti i giorni, chiuso 24 ore su 24, per inventare questa macchina del tempo. Saranno 12 puntate, tutte uguali, ma emozionantissime. E allora, Ceva, siccome io non ho molta fiducia nel fatto che questa sua proposta possa andare in porto, voglio salutare, come sempre o come spesso, i nostri ascoltatori con un momento culturale. Diamo voce a delle poete o dei poeti meno noti, un avanzo di poesia. Questa poesia, appunto, si intitola Sfiducia, ed è di questa poetessa che si chiama Antonia Pozzi. Sfiducia. Tristezza di queste mie mani troppo pesanti per non aprire piaghe, troppo leggere per lasciare un'impronta. Tristezza di questa mia bocca che dice le stesse parole tue, altre cose intendendo. Ah, ecco. E questo è il modo della più disperata lontananza. Sempre poesie di speranza e positive, Manera. La può leggere anche stasera nel suo bar di Vermezzo. Va bene, la leggerò, farò un reading nel bar di Vermezzo. Allora, anche per oggi, 25 aprile, anche anniversario dei miei genitori di nozze, tra l'altro, che sono sposati nel 1960. Figuri da quanti anni sono sposati. 55. Quindi auguri. E salutiamo Daniele Ceva, qui con me, Pietro Lacorte in regia, Marco Del Conte, il nostro autore. E naturalmente il trans Leonardo Manera. Ciao, buon sabato del villaggio a tutti. Hai capito, vermi?